America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Ho voluto aprire con la parata di Halloween perché, come si dice a Broadway, come si dice a New York, the show must go on, lo spettacolo deve continuare nonostante la tragedia che ha colpito ieri all'improvviso la città, una tragedia del tutto inaspettata, anche se, come dire, ogni volta che c'è una grande festa popolare qualcuno ha sempre un retropensiero, ma chissà che non ci sia qualche pazzo, qualche attentatore che voglia non solo rovinare la festa ma fare morti, e ieri purtroppo i morti ci sono stati, perché questo attentatore, Saiful Aybulavich Saipov, un uzbeko di 29 anni, con questo furgone che ha rubato da Home Depot, ha seminato la morte in giro per la città. Eppure, come vi dicevo, la città ha reagito. Questo attentatore non è riuscito a rompere lo spirito di New York ed è stato il governatore dello Stato a intervenire per primo e a dire proprio: andiamo avanti, non ci fermeremo. Sentiamo. Truth is, New York is an international symbol of freedom and democracy. That's what we are, and we are proud of it. That also makes us a target for those people who oppose those concepts. And we've lived with this before, we felt the pain before, we feel the pain today, but we go forward together and we go forward stronger than ever. We're not going to let them win. Andrew Cuomo, lo avete sentito, andiamo avanti, la polizia si è subito organizzata per continuare nella sua missione, che era quella di garantire l'ordine e la sicurezza lungo la Sesta Avenue, fra la 14, la 12 e la 23 e la 28, dove c'è il grosso della parata, dove ci sono persone travestite, dove questa grande festa pagana di Halloween ormai si è allargata da New York. Era partita come una piccola festa nel Village organizzata dai gay, adesso è diventata una festa, direi, quasi mondiale, una festa, come dire, di evasione, ma anche un pochino di protesta, una festa contro le convenzioni. Ci sono carri, ci sono maschere, insomma c'è di tutto veramente, la gente si sbizzarrisce e dà sfogo alla propria fantasia, è una festa alla quale ci si prepara per settimane, in alcuni casi per mesi. Ebbene, appunto, ieri all'improvviso questa festa è stata rovinata. Sentiamo. From New York City, where there's been a horrific incident in Manhattan, where it appears somebody rented a truck of some sort and drove that truck for several blocks on a bike path, just mowing down cyclists and pedestrians and runners. Allora ricostruiamo, avrete già ascoltato molti dettagli, però ve la voglio raccontare come se fosse quasi in presa diretta questa storia, perché dovete sapere che il nostro ufficio, dove abbiamo la nostra radio, dove abbiamo la nostra redazione, è letteralmente a pochi isolati dal luogo in cui c'è stato questo attacco, questo attentato. E dunque, non so come dirvi, ma la cosa naturalmente colpisce molto di più nel momento in cui la tragedia arriva così vicino. Ebbene, cosa è successo? Che questo furgoncino si è scontrato volutamente contro un autobus della Stuyvesant High School. Sono questi autobus gialli, avrete visti probabilmente nei film, l'avrete visto in televisione, a Tribeca, e qui vi ripeto, continuo a ripeterlo perché mi sembra quasi impossibile che questa tragedia abbia colpito così vicino. A Tribeca, a sud di Manhattan, la Stuyvesant High School è una delle scuole modello di Manhattan. Ce ne sono tre o quattro, una scuola pubblica, una scuola che è stata costruita a ridosso dello sviluppo immobiliare del World Financial Center e del World Trade Center. È un quartiere bellissimo, è un quartiere pieno di verde, la scuola è modernissima, attrezzatissima, ci sono le migliori menti dei ragazzi di New York, perché ci si entra soltanto attraverso un concorso cittadino. E dunque questo disturba ancora di più, che questo assassino abbia cercato di colpire, di intimorire, di portare la paura proprio là dove i giovani migliori di questa città, giovani che vengono da famiglie spesso molto povere, stanno cercando di prepararsi alla vita. La Stuyvesant è una high school, quindi una scuola superiore. E per darvi un'idea, è a ridosso del fiume, quindi è anche una zona molto bucolica, un'immagine molto bella, c'è un lungomare meraviglioso, ci sono dei parchi giochi, ci sono dei campi da calcio, dei campi da tennis e soprattutto c'è questa pista ciclabile, una pista ciclabile che si snoda dalla punta meridionale di Manhattan e arriva veramente molto a nord per alcune miglia. Ecco, dopo aver investito l'autobus giallo, il guidatore si è precipitato lungo questa pista ciclabile e lì ha cominciato a seminare la morte e il terrore. It's a very painful day in our city. Horrible tragedy on the west side. Let me be clear that based on the information we have at this moment, this was an act of terror and a particularly cowardly act of terror. Ecco, De Blasio è stato il primo a qualificare questo attacco come un atto di terrorismo. È stato un codardo atto di terrorismo, ha detto. Aveva già saputo dal capo della polizia che cos'era successo, perché il guidatore del camioncino era, a un certo punto, nel momento in cui il camioncino si è bloccato, era uscito, ha cercato di scappare, è stato poi colpito dai proiettili della polizia, è stato ferito allo stomaco e sembra che sopravviverà, per cui forse, chissà, potremmo cercare di ricostruire, di capire che cosa è successo, se era un lupo solitario, come si dice, se faceva parte di un complotto. Certamente è anche molto strano poi come le cose capitano nel modo meno atteso, tra l'altro anche molto vicino al luogo dell'attentato alle due torri del 9-11, dell'11 settembre del 2001. Ecco, poi improvvisamente, mentre seguivamo gli sviluppi di questa situazione, si è sparsa la voce che ci fosse anche un altro attentatore a Battery Park, di nuovo il parco nella punta meridionale di Manhattan, un altro simbolo della città. Per fortuna questa indiscrezione è risultata non vera. Nel frattempo però nella città regnava il caos. Sono arrivate le ambulanze, i carri dei pompieri, decine, centinaia, forse migliaia di agenti della polizia, i quali poi si sono di nuovo riversati a nord per controllare che tutto potesse funzionare al meglio nella parata. Ecco, devo dire, questo colpisce molto, questo va riconosciuto alla città, questa grande fierezza, questa serietà con cui ci si pone anche davanti alla tragedia e questa determinazione ad andare avanti. Beh, del resto, questa è una città che ha subito una tragedia ben maggiore, purtroppo, con l'attacco dell'11 settembre. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americano4.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, non voglio tornare su quello che è successo, ma dedico la canzone a Curtis Mayfield. We've got to have peace. Dobbiamo avere pace. We gotta have peace to keep the world alive and war to cease. We gotta have joy true in our hearts with strength we can't destroy. People hear us through our voice. The world knows there's no choice. We're making save the children, the little ones who just don't understand. Give them a chance to breathe their young and help purify the land. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!